perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Guarda, quasi quasi stamattina ti do una spintarella gentile. Beh, adesso spintarella gentile, diciamo sì. Anche nudge, perché non vogliamo dire nudge? Perché so che a te il gergo anglosassone non piace, me lo traduci sempre, per cui sono andata subito diretta all'italiano. E non parliamo della spintarella, quella no, che non si non intende la... qua in Italia, la raccomandazione. Brava. Infatti, guarda, questa traduzione di spinta gentile dal termine invece utilizzato dal neo Nobel Richard Thaler, non capisco perché non abbiano dato a me il Nobel per la letteratura. È una cosa incomprensibile, credimi, non mi ha fatto dormire tutta la notte. Però c'è sempre tempo per i tuoi sonetti, esercitati ancora un po'. Vado avanti, io segnalo solo all'Accademia che sono produttore di questi sonetti anche a sfondo tributario. E che ti candidi quindi per la letteratura. Esattamente. Non per l'economia. Invece per l'economia Richard Thaler ci ha insegnato che non sempre decidiamo in modo razionale e quindi decidiamo come un homo economicus. Sì. E che si mette lì e fa tutti i suoi bei conti di convenienza, quanto risparmio, quanto guadagno, eccetera, ma talvolta invece decidiamo sulla base di piccoli incentivi, piccole migliorie. Per esempio, se tutte le strade fossero pulite dai rifiuti, noi la Tari la pagheremmo molto più volentieri rispetto a quanto non facciamo, non so, ho capito bene il concetto. Esattamente, ma guarda, anche si può fare un esempio che mi è caro. Se per compilare la dichiarazione dei redditi e di conseguenza pagare le tasse non dovessi rompermi il cranio, ma fosse... Ho tremato un attimo alla rottura di che cosa? No, il cranio. E allora anche quella sarebbe una spintarella gentile. In questo senso, diciamo, il modello 730 precompilato è una sorta di spinta gentile. Benissimo. Come quelle di Richard Thaler. Allora, questo signor Thaler ne scrive da anni, speriamo che i politici prendano spunto dalle sue teorie economiche e psicologiche, appunto, per applicarle correttamente. Peraltro, segnalo, non vorrei perdere troppo tempo, ma è talmente carino quello che racconta Paolo Legrenzi descrivendo l'esperienza del professor Thaler, e ricorda che nel 97 il Financial Times, Paolo Legrenzi è un altro grande studioso di questi argomenti, è stato anche ospite dei nostri programmi molto, molto spesso, e scrive sulle pagine del Sole 24 Ore che Richard Thaler nel 97 firmò per il Financial Times un articolo per fare il punto sui progressi delle ricerche psicologiche rispetto alle discipline economiche. E che cosa fece di innovativo? Cosa fece signor Thaler? Per misurare questi progressi, disse al giornale, perché non facciamo un bel quiz da sottoporre ai lettori per vedere se hanno avuto dei progressi nelle loro nozioni finanziarie? In pratica il precursore del quizettone di due di denari. E anche per questo allora potresti meritare tu un premio Nobel, cara Deborah. Vediamo chi lo vince prima, tra me e te, se io quello per l'economia o tu quello per la letteratura. Allora intanto diamo una spinta gentile ai nostri ascoltatori oggi, sì. E ai temi di oggi. Potete naturalmente telefonarci, soprattutto 800 24 0024. Potete mandarci degli sms o scriverci su WhatsApp 349-238-6666. Vi ricordiamo la nostra pagina Facebook, Due di Denari, Radio 24, siamo in diretta video, salutiamo gli amici che ci seguono da Facebook, e naturalmente abbiamo anche una casella email, perché anche noi, come tutti gli altri programmi, abbiamo una casella non averla, email. Ma ci mancherebbe altro. Due di Denari, @radio24.it. Esatto. Rapidamente, parliamo allora di targhe difettose che si cancellano rapidamente, che diventano illeggibili. Pare che ci siano un sacco di auto immatricolate fra il 2007 e il 2008 che hanno questo problema. I proprietari di queste auto sono costretti a cambiare queste targhe a loro spese e non possono contestare con nessuno questa vicenda. L'ha scoperto un'associazione dei consumatori che si chiama Consumer. Noi fra un po' sentiremo il presidente Fabrizio Premuti. E poi dobbiamo parlare quest'oggi di pensioni. Pensioni di reversibilità. Probabilmente avete visto sul Sole 24 Ore di ieri, se non l'avete fatto, andate, è ancora disponibile naturalmente sul nostro sito. Le pensioni di reversibilità, l'assegno insomma dato al superstite, e spesso è la superstite in realtà, anche se diciamo il superstite è molto più spesso, esatto. E perché appunto come viene calcolato l'assegno, se si possono avere delle maggiorazioni nel caso in cui ad esempio certo. Ci siano la moglie, si siano dei figli ad esempio, esatto, diciamo che il caso raccontato, perché il Sole 24 Ore nelle pagine dell'Esperto Risponde se ne è occupato, perché c'è un caso concreto di una signora che ha chiesto un chiarimento sulla sua situazione specifica che adesso vi racconteremo, e poi faremo un punto su un provvedimento che era pronto a decollare e poi scomparso. È imminente. È proprio imminente l'APE, l'anticipo pensionistico. Sì, quello sociale, diciamo così, è partito. faticosamente va avanti. L'ape sulle... volontaria, esatto. Nel senso, cioè, però sulle tracce c'è il nostro personale investigatore privato, che è Davide Colombo, che sentiremo il tenente Colombo, quindi. Esatto, partiamo. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blam, blam, blam, blam. Quante ne dobbiamo sentire prima di morire, Mauro? Ma dell'auto, della targa dell'auto che si scolorisce, questa è veramente a dell'incredibile. Ma poi la cosa più incredibile di tutte, ma adesso ce la facciamo spiegare direttamente da Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, è che era stato detto già da subito dal poligrafico: dovete sostituirle senza certo. oneri per i cittadini, per gli automobilisti. E però adesso è scaduta la garanzia. Esatto, sì, perché le auto a cui facciamo riferimento sono state acquistate una decina d'anni fa, per cui sarà caduta in prescrizione la possibilità. La garanzia purtroppo è finita, esatto. E allora bisogna pagare per avere la targa che non si scolorisce, la targa esatto. nuova. Che non si deteriora. Fabrizio Premuti, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Segnalo che Consumer è con la K, per chi volesse andare a cercare informazioni. Allora, intanto, come vi è capitato di venire a conoscenza di questa vicenda? Magari un associato di Consumer aveva la targa scolorina? Assolutamente sì, infatti tutto nasce dalla segnalazione di un consumatore di Modena, il quale si era visto rifiutare la sostituzione della targa e quindi si è rivolto a noi per capirne di più. E la cosa bella è che, come avete appunto accennato, c'è già una circolare della motorizzazione in cui è scritto ben chiaro che queste targhe vanno sostituite con oneri a carico del poligrafico dello Stato e della motorizzazione, quindi senza oneri per i cittadini. Quando è successo il problema? Il problema è successo tra il 2007 e il 2008, quindi sono targhe che iniziano con la lettera D, quella di Domodossola, e presumibilmente mi non sarei che aspettata che dicesse targa. Deborah almeno, Fabrizio. Hai ragione, accidenti, e va bene, colpito 1-0, colpito. E quindi insomma sono targhe che iniziano con la D? E quindi questo significa che le targhe colpite non sono una, due, mille, probabilmente sono più di 100.000, è un intero lotto di targhe che perde lo smalto retroriflettente, cioè quello smalto che permette alla targa di essere osservata anche da lontano e anche nelle ore notturne, tra l'altro. E quindi, mi scusi se la interrompo, quindi ci si espone alle multe, perché esatto, se la targa non è visibile... Sì. Assolutamente sì, e qui arriva la seconda parte, che è la seconda lamentela del consumatore. Dice, ma mi ha fermato la polizia, la quale mi ha fatto una multa perché la targa non era più visibile, aveva perso sia lo smalto bianco che il nero che è sul numeretto e sulla lettera. Quindi è chiaro che in quel caso, se uno viene fermato, viene sanzionato, certo. E questo è previsto dal codice della strada, perché le targhe devono essere sempre visibili. Ecco, ma a parte questi che contestano il fatto che questa targa si scolorisca e perda il suo smalto, ci sono anche quelli che però, non volendo aver problemi con l'autorità di pubblica sicurezza, con il codice della strada, hanno fatto il cambio a loro spese. Ed è una bella spesa, Premuti. Ed è una spesa elevata, perché si superano facilmente i 300 euro. Ma il paradosso è quello su cui io volevo far ragionare la motorizzazione, è il fatto che quando a me mi viene data una targa, quella targa identifica il sottoscritto e il veicolo che il sottoscritto ha di proprietà, ed è un obbligo, non è che io vada in un negozio e dice ma stamattina che facciamo, ci compriamo una bella targa, quello è un obbligo, è un obbligo per il quale il poligrafico Zecca dello Stato costruisce le targhe e ci appone il sigillo di Stato. Questo è quello che avviene per le marche bollate, per gli euro che usiamo tutti i giorni. Quindi sentirsi dire dalla motorizzazione di Modena: il poligrafico ci ha risposto che questa targa non è più sostituibile perché non è più in garanzia, equivale a dire che io da domani mattina dovrò mettermi a rottamare gli euro e le marche da bollo che io ho, perché hanno certo. esattamente lo stesso valore. Tra l'altro, a chi ci si rivolge per cambiarle? Al poligrafico? Se qualcuno alla volesse... motorizza... alla motorizzazione. Che poi la motorizzazione chiaramente fa richiesta al poligrafico per l'emissione della nuova targa. Certo. Eros da Brescia ci racconta. La targa andava sostituita. Guardi, io insisto a interromperla perché c'è un ragazzo di Brescia, un signore Eros, che ci scrive: io ho risolto con smalto nero per unghie e fissante lucido trasparente. Costo pochi euro. Buona giornata. Ma è sicuro di aver fatto un'operazione corretta? Il nostro amico si espone a qualche rischio? Allora, sicuramente si espone a qualche rischio, perché in un primo momento sicuramente ad occhio nudo l'effetto sarà più o meno quello della targa nuova, però il problema è che le caratteristiche di retroriflettenza degli smalti che vengono apposti sulle targhe debbono non solo garantire la durata ma anche la visibilità notturna, e io dubito che con quel sistema la visibilità notturna sia garantita. Quindi probabilmente il nostro amico di Brescia deve stare attenta, perché in periodi di scarsa luminosità potrebbe essere sanzionato ugualmente dalle forze dell'ordine. Eros aggiunge che ha passato anche la revisione cui abbiamo fatto tombola. Gli è andata bene. Non vorrei fare... Questa è bellissima, perché poi ci lascerebbe aprire un altro spazio su come vengono fatte le revisioni. Ma un'altra puntata. Di un'altra puntata. Però, dottor Premuti, c'è il problema che allora alterare una targa, seguendo, non per fare il leguleio, ma seguendo l'esempio che faceva lei prima, è un po' come alterare una marca da bollo. Insomma, è un oggetto che ha una sua ufficialità. Quindi l'idea di rimediare in proprio con lo smalto, eccetera, espone anche proprio dei rischi, perché di fatto qualche agente zelante potrebbe qualificarlo come manomissione della targa, esatto. Il che esporrebbe ulteriori sanzioni. Insomma, una questione talmente delicata che avete fatto in modo che finisse in Parlamento con un'interrogazione parlamentare, appunto, Premuti. Sì, assolutamente, perché poi chiaramente dopo aver ricevuto ufficialmente il rifiuto per la mancata garanzia, quindi erano passati i termini della garanzia, quale termini, quale garanzia, questo non ce l'hanno spiegato, perché spero bene che non si riferiscano a quella commerciale o a quella legata sui prodotti di largo consumo, perché sarebbe veramente un gran problema poi avere fiducia verso quell'istituzione che è il poligrafico dello Stato. Ma il problema è che a quel punto non ci restava altro che interessare la politica, e abbiamo scritto a una serie di parlamentari, ovviamente di tutti i gruppi politici, perché da associazione indipendente non ci rivolgiamo a un gruppo politico, ecco, ma ci rivolgiamo a chi ci rappresenta in Parlamento. E una parlamentare, Arianna Spessotto, ha raccolto l'invito e ha fatto una interrogazione parlamentare in cui chiama in causa ovviamente il ministro dei trasporti Delrio, al quale chiede se sia mai possibile che un cittadino debba vedersi ingannato a questo punto dal poligrafico Zecca dello Stato, perché per un difetto di fabbricazione, quindi un difetto di conformità che nasce all'origine, debba poi essere lui a pagarne le conseguenze anche in termini economici. Questo è assolutamente ingiusto, è uno di quei meccanismi vessatori che spesso troviamo nelle procedure dello Stato, che fanno perdere sempre di più al cittadino fiducia verso l'istituzione. Certo. Senta Premuti, un'ultima cosa, poi la dobbiamo salutare. Ma secondo lei una campagna di richiamo delle case automobilistiche, ognuna per la quota di sua competenza, una pro quota delle auto che ha messo in circolazione, che sono state immatricolate con questa modalità, non sarebbe... Magari è chiaro che le case automobilistiche sono danneggiate alla stessa maniera dei conducenti, ma forse ma hanno una forza magari contrattuale un po' più consistente, un po' più forte. Ci avete pensato anche di fare una proposta di questo tipo? Allora, io temo che su questa partita le case automobilistiche non entreranno mai nel merito, perché significherebbe contrapporsi al poligrafico e alla motorizzazione, che per mille altri versi ha poi conflitti di interesse l'uno con l'altro. Quindi temo che su questo non troveremo sponda. La sponda noi la dobbiamo trovare in Parlamento, perché c'è chi ci rappresenta e ci deve dare delle risposte. Se non la troveremo in Parlamento, siamo determinati a organizzare cause collettive nei confronti del poligrafico Zecca dello Stato, perché a me sta faccenda della garanzia mi sembra tanto una presa in giro e non è assolutamente giusto che il cittadino paghi per le colpe di qualcun altro. Grazie, ci faccia sapere come finisce allora questa vostra richiesta. Ringraziamo Fabrizio Premuti, presidente di Consumer con la K. Intanto un ascoltatore ci scrive: io ho modificato la targa come fatto dall'altro ascoltatore d'Eros di Brescia, risultato sono stato pizzicato, rinviato a giudizio dal tribunale di Monza in attesa di condanna o spero assoluzione. Attenzione quindi, ecco, anche a queste procedure dicevamo casalinghe prima, dicevamo prima con Premuti, la targa è un oggetto in qualche modo ufficiale e quindi alterarla non è consentito. È vero che uno si limita ovviamente a ricalcare quello che ci sta scritto sopra, però è rischioso. Comunque invitiamo gli ascoltatori che avessero questo problema a segnalarcelo, scriveteci, esatto. Scriveteci un'email, stiamo parlando di auto immatricolate tra il 2007 e il 2008 con targhe che si scoloriscono. C'è poco da ridere, Debora, è un problema. No, guarda, per fortuna che la mia è un po' più recente, perché sennò andava a fare una verifica. E con targhe che si scoloriscono e che perdono anche la capacità riflettente, quindi specialmente di notte diventa un ulteriore rischio. L'ultimo dato statistico, per dare una bella notizia, perché sennò sempre cose negative. Le donne in media vivono 7 anni più degli uomini. Quindi prima o poi la moto ve la vendiamo. Quando ieri abbiamo pensato di affrontare oggi il tema della pensione di reversibilità, è a Mauro che è venuto in mente di utilizzare questo sketch di Teresa Mannino sulle pensioni di reversibilità. In realtà non andava proprio dritta al punto. Sì, ma... perché di solito, come dicevamo prima, si dice la pensione ai superstiti, così viene anche chiamata. Però sarebbe più corretto dal punto di vista statistico chiamarla alle superstiti. Pensa, Deborah, devi fare 7 anni di due di denari da lo sola. Lo so, ma sai che io ho scritto questo libro, Donne di Denari, e dove racconto con delle evidenze statistiche che in Italia ci sono molte più vedove che vedovi e pertanto qualcuno le dovrà retribuire per questa loro meritevole sopravvivenza e quindi prendono le pensioni di reversibilità. Uno stock molto importante. Pensate che in Italia nel 2015 ne sono state erogate 3.052.482 per un ammontare di circa 24 miliardi di euro, quindi parliamo di un tema importante che fa sempre molta presa fra i nostri ascoltatori e soprattutto, come dicevamo Mauro, fra le nostre ascoltatrici. Ieri c'era un caso sulle pagine dell'Esperto Risponde. Sì, avevamo analizzato, avevamo preso questo caso di una signora che è rimasta vedova, appunto di un signore che non aveva però una storia contributiva molto rilevante, perché aveva un decennio più o meno di versamenti, voleva capire come poteva essere calcolato l'assegno. In più c'era anche il problema che se ci sono delle figlie non ancora indipendenti dal punto di vista economico, e allora si è rivolta all'Esperto Risponde, ha inviato appunto al nostro sito www.espertorisponde.ilsole24ore.com la domanda e ne abbiamo fatto un caso proprio per aprire le pagine dell'Esperto Risponde ieri sul Sole 24 Ore. Ma la reversibilità, come dicevi tu, è un tema che riguarda molte persone e anche non è sempre facilissima da capire nelle sue regole di base. È evidente che bisogna avere una storia contributiva del decuius, cioè del caro estinto, e che però questa storia contributiva poi, a seconda della situazione del superstite o della superstite, va a modificare l'assegno. Ma per capirci di più noi abbiamo chiamato chi ne sa, cioè Fabio Venanzi. Buongiorno. Un grande esperto di pensioni. Buongiorno a voi, buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. Allora correggimi subito, anzi mi corregga, manteniamo una formale distanza. Mi corregga dottor Venanzi, integri pure quanto ho detto della pensione di reversibilità, dell'assegno di reversibilità. No, assolutamente, tutto corretto Mauro. La pensione di reversibilità rientra in quella casistica, diciamo, delle cosiddette pensioni indirette ai superstiti e si distingue appunto tra quelle di reversibilità nell'ipotesi in cui il soggetto è già pensionato al momento del decesso, dalla diversa pensione che è quella invece spettante al coniuge superstite quando il lavoratore muore senza essere titolare di un trattamento pensionistico proprio. In entrambi i casi comunque l'importo della prestazione pensionistica viene calcolato sempre allo stesso modo. Sappiamo che chi rimane in vita spetta, se solo, il 60% dell'assegno calcolato sull'anzianità contributiva maturata dal lavoratore deceduto, e in presenza invece di uno o più figli si può arrivare fino all'80 o al 100%, fermo restando appunto che il tetto della pensione di reversibilità non può essere mai superiore al trattamento complessivo che avrebbe maturato il lavoratore nell'ipotesi in cui non fosse deceduto. Certo. Naturalmente ci sono già delle domande da parte degli ascoltatori che ci segnalano la loro situazione specifica, spesso piuttosto complicata. Andrei subito a leggerne qualcuno, Mauro, perché c'è certo. Manuel che per esempio ci chiede: l'assegno di reversibilità spetta anche al figlio superstite che ha accudito il genitore malato di Alzheimer per tutta la vita? E questo ci permette appunto di entrare in un territorio complicato, perché in realtà molto spesso questo riconoscimento c'è della reversibilità venanzi, bisogna capire però chi fosse a carico di chi, se questo genitore fosse a carico del figlio. Allora, di norma i figli hanno diritto a partecipare all'assegno del genitore deceduto se minorenni o se maggiorenni e studenti, quindi se iscritti comunque a singoli corsi di laurea oppure a master o se frequentano dottorato di ricerca. L'altra ipotesi in cui i figli accedono alla pensione di reversibilità è il caso dei figli inabili, che erano comunque a carico al momento del verificarsi dell'evento. Quindi dalla domanda posta ritengo che il figlio non abbia diritto, perché e poiché era lui che si prendeva cura del genitore malato, se il figlio è comunque in età maggiorenne non rientra in nessuna di quelle casistiche previste dalla norma, come appunto studente universitario, iscritto a dottorato di ricerca o altre fattispecie particolari, la pensione di reversibilità non spetta. Perché c'è un limite poi di età massimo, no, per l'erogazione al figlio. Esatto, nel caso 26. Di soggetto diciamo abile arriviamo al massimo fino a 26 anni di età. Nel caso invece di figlio inabile, quindi non invalido, mi raccomando, inabile, sì. Quindi soggetto che diciamo a causa dell'infermità o difetto fisico mentale si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, questo è un concetto ben diverso invece dal concetto di invalidità, dove comunque il lavoratore potrebbe avere un residuo di capacità lavorativa. Quindi nel caso di figli inabili lì non esiste un limite anagrafico, e nel caso di solo un figlio che partecipa appunto alla reversibilità del genitore deceduto, gli spetta fino al 70% dell'assegno pieno. Benissimo. Allora, sì, no, tra l'altro, guarda, due cose, Mauro, perché gli ascoltatori, hai visto che ci segnalano anche la famosa legge antibadanti, sì. Che era quella che avrebbe voluto impedire il matrimonio dell'ultima ora fra la badante. Matrimonio di convenienza. Esatto, l'anziano proprio in virtù di impedire, con l'obiettivo appunto di impedire. All'assegno di reversibilità, infatti. Ma abbiamo quella legge o non ce l'abbiamo più, ti ricordi? Guarda, io in questo momento penso che non ce l'abbiamo, però poiché abbiamo in linea anche Davide Colombo e lo sentiremo tra poco, adesso li facciamo cercare tutti e due. Però in questo momento ci dobbiamo fermare, mi raccomando, se avete domande o volete chiamarci continuate a farlo anche durante questi pochissimi spot pubblicitari e le informazioni sui mercati che diamo subito, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. E adesso Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri. Ecco, il tema del poco oggi è molto relativo. Sì, diciamo che la canzone mostra un pochino i segni del tempo. Esatto, infatti. Allora, torniamo a parlare di reversibilità. Ci sono tantissime domande che ci avete mandato, richieste di informazioni, di approfondimenti. E ce le mandate. E anche telefonate. Allora, innanzitutto salutiamo Davide Colombo. Buongiorno Davide. Buongiorno a voi. Mi perdonerai, ti ho chiamato il tenente Colombo perché sei sulle tracce dell'ape volontaria. Segugio. Quindi, se non la trovi tu... confuse. Tracce confuse, quindi già preannunciamo che non sarà facile dare buone notizie. Eccolo qua, guarda, infatti abbiamo anche la sigla di chi l'ha visto. Certamente. Per forza, qua c'è un provvedimento firmato, doveva entrare in vigore, pure retroattivo peraltro. Dal primo di maggio. La Gazzetta non l'ha mai visto, manco dipinto questo provvedimento. Ma adesso ne parliamo, continuiamo con la reversibilità. Un attimo ancora sulla reversibilità, sì. Perché ci sono anche diversi ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno chiamato. Allora, Ornella da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Può farci la domanda molto rapidamente? Sì. Ci dica. Io chiedevo come mai, visto che l'INPS dicono che è in crisi, che ha difficoltà per i pagamenti, continua a pagare la pensione di reversibilità ai vedovi e alle vedove che hanno un separati, legalmente separati. Grazie, perché questo è molto importante. Chiamo in causa Venanzi subito, perché la pensione di reversibilità spetta ai separati, ma a condizione che, Venanzi... Allora, ai separati spetta a condizione che non ci sia stato l'addebito con colpa, ma spetta anche ai divorziati, ai coniugi divorziati, nell'ipotesi in cui il coniuge che effettivamente percepisce l'assegno sia stato titolare di assegno divorzile. Questo perché sappiamo, al fine di consentire il mantenimento, diciamo, dello stato agiato acquisito in costanza di matrimonio, anche se su questo punto sappiamo che la Cassazione di recente ha un attimino fatto ballare questo fondamento che ci portavamo avanti. La sentenza da quasi 40 Grilli anni. Di maggio, sempre esatto, lei teniamo in ballo, esatto. Infatti. E quindi è un istituto che potrebbe anche essere rivisitato se qualcuno si incaponisse in questa battaglia, chi lo sa? Assolutamente, assolutamente no, perché non ci dobbiamo dimenticare che la contribuzione che viene pagata ogni mese è a titolo IVS. IVS è l'acronimo di invalidità, vecchiaia e superstiti. Quindi con una separazione in atto il matrimonio è vero che si sta sciogliendo, ma giuridicamente ancora non si è sciolto, non sono cessati gli effetti, a differenza di quello che invece accade nel caso del divorzio. Ma nel caso del divorzio l'assegno appunto spetta a condizione che l'avente diritto abbia l'assegno divorzile, mentre nel caso della separazione l'unica cosa è andare a verificare se c'è stato o no l'addebito. Vabbè, però detto questo, visto che oggi si formano sempre più famiglie, come dice un ascoltatore, allargate, e quindi nascono nuove coppie che sono coppie che si formano da persone che hanno avuto altre vite familiari in precedenza, mi rendo conto che magari i nuovi partner di queste persone che versano una assegno o comunque le, no, a parte che la signora parlava di pensione di reversibilità, per cui evidentemente la persona è mancata, però mi rendo conto che magari la partner nuova è quella che ha accompagnato la persona negli ultimi anni di vita, sia un po' indispettita rispetto a queste situazioni pregresse. Partner originale. Infatti. C'è Gerardo da Varese che ha un'altra domanda. Buongiorno Gerardo, la domanda, grazie. Buongiorno. Mia suocera percepiva una pensione di invalidità. Sì. Mio suocero è morto nel 2003-2004. Sì. E quando c'è stato il discorso della reversibilità, l'INPS non gliela concessa perché appunto mia suocera non aveva compiuto ancora 65 anni, aveva 63 o 64, e quindi in quel momento gli hanno detto se avesse avuto appunto 65 anni compiuti poteva aggiungere alla sua pensione di invalidità anche l'integrazione della reversibilità del defunto, e non è stato possibile fare. La mia domanda è sono passati tutti questi anni, ma siccome poi mia suocera i 65 anni li ha superati, può fare nuovamente una domanda per il riconoscimento, certo, di questo diritto? Grazie Gerardo. Fabio Venanzi. La domanda può essere presentata perché il diritto a vedersi riconoscere la prestazione pensionistica è un diritto patrimoniale indisponibile, quelli che si prescrivono sono i ratei, per cui facendo oggi la domanda non si potrà richiedere più di 5 anni indietro di arretrati. Però insomma quantomeno meglio, non è una perdita, come si dice, totale. Meglio che perdere l'ombrello, però. Esatto, sempre meglio che un calcio nel sedere, dico io, anzi proprio la dico un po' più romantica, però. Senti, Franco allora. Da Udine ancora. Buongiorno Franco. Buongiorno. Buongiorno. Veloce, grazie. Ci dica. Sì. Ecco, volevo sapere, io ho 76 anni, convivo da un 14 con una signora di un paese comunitario, della Comunità Europea, sì. Conviviamo ma non siamo sposati. In caso di mio decesso, la mia pensione INPS sì. può essere reversibile a favore della signora? Lei è stato sposato, Franco? Prima sono stato sposato e sono divorziato. Venanzi? La risposta è no. Dovrebbe punto. Sposarsi, quindi Venanzi, certo. dovrebbe contrarre matrimonio, giusto? Franco, e verificare un po' lei. Poi se la prima moglie di Franco non è titolare di assegno divorzile. Perché altrimenti la prima moglie di Franco sarà quella a cui spetterà... In presenza di più coniugi, cioè del coniuge sì? divorziato e di un secondo coniuge, sarà il giudice a stabilire in che misura il 60% della pensione spettante superstiti debba essere ripartita tra i due coniugi rimasti in vita. Grazie Fabio Venanzi. Davide Colombo, la pensione di reversibilità fa veramente gola. Adesso mi viene questa battuta anche non tanto brillante, però detto questo mi pare di capire che c'è grande interesse intorno all'argomento. Ma intanto diciamo che stiamo parlando di un oggetto che costa circa 30 miliardi l'anno. Ah beh, io avevo detto 24 prima, quindi abbiamo anche aumentato. 24 del 2015. Dato che hai dato tu, relativo solamente ai, come dire, superstiti da pensionato, cioè quando chi decede è un pensionato e lascia la sua pensione, mentre invece c'è anche la superstite da assicurato, cioè quando, come nel caso della lettera che avete ricevuto e su cui avete costruito questa pagina del Spettro Risponde, è un signore che è morto avendo maturato 10 diciamo, anni di contribuzione, un certo livello sì, di contribuzione, quindi lascia. La maggioranza sono i pensionati che muoiono e lasciano la pensione, circa sono 3 milioni circa le pensioni di reversibilità attualmente derivanti da un pensionato che è mancato, e invece 700-800 mila quelle di lavoratori che sono mancati e quindi lasciano la futura pensione alla moglie di solito. La cosiddetta indiretta, no? La chiamano esatto. in gergo. Davide, invece dici rapidissimamente, poi ci fermiamo per il traffico, ma l'APE volontaria la vedremo mai invece? Perché comincio a dubitare. Beh, ne dubito anch'io. Diciamo, per tenere un collegamento con la reversibilità, che la pista che prendesse l'APE, dopo, quando inizierà a prendere la pensione, lascerà anche la pensione, evidentemente, alla superstite. No, il decreto dell'APE invece diventa veramente un mistero, perché stiamo oramai quasi a metà ottobre. Più di un mese fa il Presidente del Consiglio ha firmato un decreto presidenziale primi di settembre esatto, con le regole applicative di questa norma, e ancora siamo ancora lontani dalla gazzetta ufficiale. Sappiamo di incontri in corso con ABI e ANI, esatto, per perché il tema era quello, quadro, esatto. E se volete ve ne parlo, insomma. Visto che si parla certamente. Di un assegno, un anticipo pensionistico finanziato ovviamente con il canale tradizionale del credito, quindi sono le banche che devono metterci il loro contributo, evidentemente, e le assicurazioni nel esatto. caso di premorienza della esatto. apista, come lo ha chiamato Davide esatto. Il tema è che probabilmente non si trova ancora la quadra di questo accordo con questi due ma ci torniamo soggetti. Ci torniamo Deborah, ma sì? dopo il traffico. Due di denari. Chi l'ha visto? Chi l'ha visto il decreto dell'APE? Davide, non l'abbiamo... La gazzetta ufficiale sicuramente no. Eppure esiste, no? È stato firmato dal Presidente del Consiglio, giusto? Non abbiamo motivo di dubitarne. Non solo esiste, ma è anche un oggetto che è stato vagliato dal Consiglio di Stato, per esempio, e quindi nella versione che è arrivata alla Corte dei Conti, che ora lo ha al vaglio da diverse settimane, è nella versione già appunto che tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato. Quanto mancherà ad arrivare in gazzetta è veramente difficile. Siamo a oltre 10 mesi, diciamo, dal varo della norma. Esatto, che ha anche una quota di retroattività importante, per cui più andiamo avanti con le settimane, più anche l'aspetto della retroattività immagino si complichi. Davide, e anche Venanzi, vi chiediamo di aspettare un attimo, perché ha riscosso molto consenso la prima parte della trasmissione, quella sulle targhe che si scoloriscono, al punto che evidentemente è necessario dare qualche precisazione in più rispetto al ruolo in tutta questa complicata partita dalla quale siamo venuti a conoscenza nelle ultime ore, il ruolo appunto che deve essere meglio definito è quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a cui competerebbe, secondo quello che abbiamo detto prima, no, noi Mauro, di sostituire le targhe, esatto, senza oneri per il cittadino, per l'automobilista. Esattamente. Siccome si sono sentiti chiamati in causa, hanno ritenuto necessario fare delle precisazioni, ci hanno chiamato e quindi noi ringraziamo moltissimo l'ingegner Ivo Planeta, direttore della direzione operativa Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Buongiorno ingegner Planeta e grazie per aver chiamato. Buongiorno, buongiorno a voi. Non buongiorno siamo stati precisi all'inizio? Ma io guardi, in realtà ho sentito solo una parte della vostra trasmissione, però so che esiste ed è esistito un problema relativamente al discolorimento delle targhe, ma riferito a delle produzioni che sono avvenute nell'anno 2000-2001. Esatto, e noi invece abbiamo rilevato 2007-2008, secondo quello che ha potuto rilevare questa associazione dei consumatori Consumer, basandosi da un caso di Modena, poi appunto abbiamo appurato che in realtà è molto esteso. E quindi compete a voi o no cambiare queste targhe? Beh sì, noi abbiamo il vincolo di sostituire le targhe in garanzia nell'arco dei 5 anni dalla nostra consegna. E quindi sì, ci sono dei problemi ovviamente, problemi legati alla nostra produzione, ovviamente interveniamo e sostituiamo nell'arco dei 5 anni. Il discorso del discolorimento effettivamente è stato un problema che si è presentato dovuto a una pellicola fornita da una società che ci fornisce normalmente questo prodotto e che è risultato difettoso e quindi è stato poi sostituito, per cui in realtà superato il problema della pellicola che è stata utilizzata all'epoca, noi questo problema oggi e negli ultimi anni non lo stiamo più rilevando assolutamente, anzi stiamo rilevando soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni una netta diminuzione dei difetti che queste targhe presentano. Le do un dato del 2017, su circa 2 milioni di kit prodotti quest'anno noi abbiamo avuto 60 targhe che ci sono state restituite peraltro dagli uffici della motorizzazione, quindi prima che andassero al cittadino, ai cittadini, che contenevano dei difetti che non erano connessi comunque con lo scolorimento, ma erano alle volte ammaccature dovute anche al problemi di spedizione o rovinate. Per altre ragioni. Ingegner Planeta, mi scusi, prego. Lei dice noi entro i 5 anni lo sostituiamo, ma se io ho lo scolorimento al 6º, al 7º anno che succede? Credo che almeno secondo l'attuale normativa rappresenti per il cittadino un costo, perché devono essere, noi non le restituiamo più in conto garanzia. Quindi io devo ripagarle sostanzialmente se lo scolorimento avviene dal 6º anno, al 7º anno, all'8º anno o al primo giorno ripagarlo successivo alla scadenza del 5º. Se lo scolorimento avviene, il problema dello scolorimento a cui voi fate riferimento è legato a produzioni molto superiori ai 5 anni e all'epoca sono state sostituite direttamente perché il problema era stato individuato anche in fabbricazione. Lo scolorimento che si individua oggi 2017, se c'è, noi non abbiamo evidenza che questo difetto oggi ci sia, si riferisce ai 5 anni precedenti, non possiamo andare prima, anche perché superato il tema dell'epoca del film protettivo che era stato utilizzato e che quindi non è più stato, è stato cambiato e utilizzato quello corretto, questo problema non si è più presentato. Oggi noi non lo individuiamo come problema tanto diffuso delle ultime. Non lo individuiamo più. È chiaro che il parco automobili italiano è l'età che ha, quindi sicuramente è vecchiotto, sì, lo scriviamo sempre quando sì, facciamo abbastanza datato, e quindi evidentemente si vedono in giro targhe che risalgono a 7, 8, 10 anni a dietro. Certo. Però il problema oggi oggi noi non lo rileviamo come problema di oggi, degli ultimi 4-5 anni, quindi siamo compreso nell'ambito dei 5 anni di garanzia che abbiamo sul insomma, vedremo se con questo intervento parlamentare di cui parlavamo prima, magari il legislatore dispone diversamente, quindi anche per un'auto vecchia di 10 anni amplierà la possibilità, esatto, per il cittadino, infatti, di ottenere senza oneri, cioè senza pagare, detto proprio in italiano brutale, la sostituzione della targa anche trascorsi 5 anni dei quali ci ha parlato l'ingegner Planeta, che ringraziamo naturalmente. E infatti per aver chiamato, soprattutto di sua spontanea iniziativa. Grazie ingegner Planeta, prego, buona giornata. Prego, allora, cosa ci manca da dire sulle pensioni di reversibilità? Che sono talmente tanti gli ascoltatori che ci hanno scritto e li invitiamo a continuare. Siamo stati assediati e vi ringraziamo, ci fa tantissimo piacere, vuol dire che abbiamo colto un argomento che vi interessa molto. È impossibile rispondere a tutte le vostre telefonate, gli sms. Allora vi invitiamo innanzitutto, scriveteci duedidenari@radio24.it. Potete anche rivolgervi, se volete, al sito www.espertorisponde.ilsole24ore.com, perché lì c'è la modalità per inviare proprio il vostro quesito ai nostri esperti. Ma c'è anche un serbatoio di tante risposte, per cui magari al vostro caso trovate lì casualmente la risposta alla vostra situazione specifica. Ci sono più di 200.000 casi, direi, potreste anche avere la fortuna di trovare il caso, quello che fa al caso appunto al caso vostro. Bene, in tutto questo gran chiacchierare siamo arrivati alla fine della trasmissione, Mauro. Il tempo vola quando ci si diverte. C'era anche una novità interessante sul bonus cultura per i diciottenni. Allora la raccontiamo domani, perché c'è una petizione in giro per qualcosa che non funziona anche lì. Per non cui tutto va bene per i nati nel 98, ma esatto, lo diremo domani. Assolutamente. Grazie a Fabio Venanzi e Davide Colombo, tutto lo staff della redazione e dell'assistenza tecnica che ci seguono, e tutti i ragazzi che ci seguono tutti i giorni. A domani, buona giornata.